Siamo in collegamento telefonico con Andrea Merendelli, direttore della 23esima edizione del Teatro di Comunità dal titolo Tovaglia Quadri ad Anghiari, in provincia di Arezzo, dal 10 al 19 agosto. Andrea, ben trovato. Ben trovati a voi, grazie per la vostra telefonata. Andrea, mi dicevi della definizione Teatro di Comunità, ci piace, ci racconti un po' di questa anomalia? È un'anomalia che dura da 23 anni, come hai detto tu, è un'anomalia che mette insieme dei racconti e un po' i destini, il passato e anche a volte il presente, che non sempre ha i contorni così certi di un intero territorio, che è quello della Valtiberina Toscana, questo corno di Toscana al confine tra Emilia-Romagna, Umbria e Marche. E in questo angolo di Toscana si racconta in una piazzetta del centro storico medievale della città di Anghiari, nota per il celebre affresco scomparso di Leonardo da Vinci della battaglia di Anghiari, si racconta ogni anno una storia che ha questa particolarità. Sono gli abitanti a raccontarla, è la comunità che la racconta, dalle finestre, dalle porte di casa, mentre il pubblico se ne sta seduto a mangiare del cibo molto particolare, ricercato e chilometro zero e prodotto dal territorio che ospita ogni sera circa 120 commensali. Andrea, com'era come partito tutto? Parte tutto dall'osservazione un po' identitaria di chi siamo. Ecco, io sono di origini angheresi e in qualche modo, pur avendo fatto un po' il giramondo, rientrando e cominciando a mettere, diciamo, le radici, anche ritornare a mettere le radici nel luogo dove eravamo nati, abbiamo osservato, ci siamo guardati intorno su tutte le modalità narrative, quello che aveva Anghiari, questa forte vocazione, oggi si direbbe allo storytelling per essere un po' esotici, insomma, al tempo si diceva al racconto, alla narrazione, una tradizione teatrale molto forte che tuttora continua, c'è un teatro di produzione e un centro per la danza e la ricerca contemporanea, e ci sono tante realtà e soprattutto c'è una cosiddetta Valle della Memoria, titolo inventato non da me ma da Saverio Tutino, il grande giornalista, fondatore dell'archivio dei diari, del premio diaristico nazionale e in qualche modo della Università dell'Autobiografia. E quindi in questo humus, dove il racconto è una vocazione diffusa, dall'osservazione anche di quello che succede in Toscana, siamo toscani, quindi a Montichiello si racconta da oltre 50 anni i destini di una comunità. A noi ci sembrava interessante capire se si poteva fare non in una scenografia costruita, pre-costruita, ma direttamente dalle case in questa piazzetta che è un campiello, uno scenario naturale, quindi mettendo la gente a tavola sopra il panno toscano per eccellenza, che è il panno di Anghiari, delle tovaglie a quadri, in quadri di narrazione scanditi dalle portate, da Sì. antipasti, primi, secondi, da un cibo di assoluta qualità. Allora, dato che sono gli abitanti, uomini e donne, che si raccontano, come si struttura? Da che periodo nasce durante l'anno questo lavoro? Ma diciamo che Tovaglia Quadri è un racconto permanente, non è... quando mi chiedono quando cominciate a scrivere, dico che non smettiamo mai di scrivere, perché diciamo, è una scrittura perpetua, un moto permanente che nasce dall'osservazione delle dinamiche locali che però devono essere raccontate anche in maniera universale, come facciamo quest'anno per esempio, che dal titolo, che penso insomma non l'abbiamo ancora detto, ogni anno diamo un titolo con doppia lettura possibilmente sempre di quello che scriviamo. Il titolo di quest'anno richiama fortemente a un'emorragia vera e propria che nella provincia di Arezzo ha toccato delle vette, credo, a livello nazionale più alte, che è la chiusura delle piccole e medie attività commerciali e l'e-commerce, che ha un po' stroncato, diciamo, un po' la vita di interi territori dove sono scomparsi fino al 40-50% delle attività e con conseguente anche spopolamento, perché a volte, insomma, se manca un po' un tessuto anche di piccolo commercio, ci si sposta da un'altra parte. Quindi ecco, ci siamo interrogati su questo, abbiamo ascoltato tante voci e, essendo l'anniversario dei 100 anni della guerra, ci siamo trovati davanti un materiale che è un vero e proprio tesoro di lettere, memorie e manifesti stampati durante i 3 anni della guerra 15-18 e soprattutto storie anche di disertori che sono sempre passati in secondo piano e che invece da Arezzo, insomma, in tanti scelsero di non andare e molti vennero anche fucilati per questo. Lei La giornata com'è strutturata? Si arriva ad Anghiari all'ora cena, in questa terrazza che si chiama il Poggiolino, di grande effetto sulla valle che dà sul centro storico medievale di Anghiari, e si prende il biglietto, dopo aver pagato il biglietto per entrare a tavola, e a tavola ci si siede in queste tovaglie a quadri. Intorno la narrazione è già cominciata spesso, anche se uno non se ne accorge, ma non come si potrebbe immaginare a volte, no? In un'interazione teatrale con il pubblico, ma semplicemente cercando sempre un briciolo di verità in tutto quello che facciamo. Per questo la scrittura viene aggiornata al fatto anche del giorno, no? In qualche modo cerchiamo sempre di collocare nel contesto di quello che accade lo spettatore ignaro, a volte per lo più, di quello che è un po' la febbre interna di un paese. Sì. Senti Andrea, in chiusura ci dai anche tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sì, io vi do riferimenti tenendo presente che ormai è diventato un fenomeno, un vero delirio. Credo che ci siano pochi biglietti sparsi qua e là in ogni serata. Comunque, i riferimenti io li do volentieri, sono quelli dell'ufficio del turismo che si occupa della biglietteria, la Proloco, e in particolare il numero di telefono 0575 749 279, oppure si può scrivere a Proloco @anghiari.it. E senza disperare, perché anche chi viene da fuori spesso capita che la sera vengano rimessi in vendita rinunce oppure biglietti che erano stati destinati ad altri. Quindi diciamo che lo spettatore last minute, a volte, se è fortunato, riesce ad entrare. Avete anche un sito internet, una pagina C'è Facebook? una pagina Facebook, Tovaglia Quadri, così come ve lo Benissimo. dico. Allora, ricordiamo la 23esima edizione del Teatro di Comunità Tovaglia Quadri ad Anghiari, provincia di Arezzo, dal 10 al 19 agosto. Un saluto e un ringraziamento al direttore Andrea Merendelli. Andrea, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, grazie a voi, grazie ancora, arrivederci.